Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. È sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla Terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà. E buonasera, ben ritrovati e ben ritrovate alla nuova puntata delle porte di Tannhäuser qui su Radio Wombat 1359, onde mediocri. Buonasera, benvenute, benvenuti. 16 febbraio, sì, 2026, non la prima puntata, una delle prime puntate del 2026, non mi ricordo, sicuramente ne abbiamo fatta una sull'inverno. Abbiamo fatto solo quella dell'inverno perché poi c'è stata la serata Loveland, scusate, Nervature. Sì, bellissima serata live a cui abbiamo voluto giustamente dare spazio. E torniamo oggi invece con una puntata più consueta delle nostre porte di Tannhäuser. Ricordiamo subito velocemente 13.59 onde mediocre, come dicevi giustamente in apertura, nella zona di Firenze e dintorni, ma anche radiowombat.net in streaming per ascoltarci da ovunque siate, e poi le varie posta wombat @insiberia.net per scriverci, per mandarci la posta, e poi diretta wombat.vado.le per chiacchierare con noi in diretta se ci state ascoltando intorno appunto alle 21 di un lunedì su due, se no ci ascoltate in podcast, e quindi non scriveteci perché non vi ascoltiamo noi. No, esatto, non risponderemo. Sì. Indifferita. Punto vado lì, ho scritto invece punto vado punto... Dove vado? Lì. Lì. E quindi prima puntata di... cioè prima... allora sì, no, forse questo è proprio un lapsus. Puntata che vogliamo dedicare a Ballard, perché ve l'avevamo già spoilerato l'ultima volta. Effettivamente Ballard per noi è un mostro sacro che abbiamo aspettato, abbiamo procrastinato, abbiamo centellinato fino a quando alla fine abbiamo deciso di farlo, e chiaramente è molto probabile che da una puntata poi ne sboccheranno altre 100, perché ci conoscete. Sì, sicuramente, almeno due di sicuro, perché non riusciremo ad esaurire l'argomento stasera, però Ballard è troppo importante, per la fantascienza, perché è colui che, spoilerando subito così sia già la chiave di lettura secondo me giusta per Ballard, che è colui che ha cominciato a dire che la fantascienza non era solo viaggi, astronavi, esplorando quello che c'è fuori, lontano da noi, ma in realtà è esplorare quello che c'è dentro di noi. Esattamente. Il famoso inner space, di cui dopo vi parleremo abbondantemente. E questo cambierà tutta la fantascienza, cioè, insomma, parte della fantascienza e quella che è moderna. E sicuramente, fra l'altro, influenzerà il cyberpunk, cioè quello che ha dato vita... Sì. Di fatto al cyberpunk. Senza dubbio, infatti, con insomma, c'è tante cosine da raccontare. Partiamo con un pezzaccio e poi partiamo subito. Yes. Con Ballard, appunto, un po' di biografia, di opere, ma insomma, soprattutto la poetica è quella che ci interessa più di tutti, e quindi vamonos. Get busy, mommy, round, any liquor that's about, get done. Dance floor, get done. gonna be from, from, from. Wanna jump up in the club, come jump. You can never guess this with a plus one, bruv. These days get done, done, done, done, done. Whole scene got run some trust. Couple drop-offs in the dump truck. Cars gonna take out the trash when the sun comes up. Moonshine gang getting rum punch. Drunk up in the big smoke, each with one lung punch. On the low, hush, hush, hush. We teamed up with the popo and some. We running the show, we was in control. Bleed money and gold, bruv, that's us. Even on the floors, leaning on the walls, freezing and our souls, bruv, that's us. Any rhythm, any sound, any city, any town, getting down, get done, done, done, done. Get busy when we round, any liquor that's about, get done, done, done, done. Dance floor, get done, done, done, done. The whole club got done, done, done, done. Moonshine gets run, run, run. Got the whole city drinking, I'm a rum, yum, yum, yum, yum. Brewing these tasties. Move tickets, wanna die wasted. Who's got you going like crazy? Who's not? Where? Knock, knock, who's there? Got the confused or not that bread? They be confused if they clock that check. They never sit down in the underground lair. Look, who's this? Gotta follow them tips. Cause they on the hunt for the rum, rum, glitter. Tasty mix. Got them in the tips. Was not our intention. Well, maybe it was. Gotta run on, tell them what we say. They can't catch us. No, not today. Stay earned, dead or alive. You know we'll survive. Cause you never get rid of this dirty moonshine. Cosmonauti alla deriva! Rimbalziamo nel niente! Anche se abbiamo detto che non parleremo di spazio, ma invece un po' sì. No, vabbè, un gocciolino sì, è sì. Chiaro, la fantascienza non può prescindere eccessivamente. Infatti. Però passa anche da... No, in Ballard passa da tante altre cose. Vari spazi. Quindi, allora, per iniziare ad entrarci dentro Ballard, yes. Diciamo... Yes. Vediamo, iniziamo con in maniera un po' strana rispetto al solito. Vi diamo delle coordinate iniziali per se volete approfondire. Invece di darvele alla fine, ve le diamo adesso. Che sono tre libri un po' anomali riguardo Ballard, perché non sono i suoi libri, i romanzi o i racconti più conosciuti, di cui ovviamente comunque dopo parleremo. Però sono nell'ambito della saggistica. Sono un libro che si chiama I miracoli della vita, che è l'autobiografia di Ballard, che ha pubblicato, è stata pubblicata nel 2008-2009 in Italia, dove fra l'altro annuncia al mondo di avere un cancro e Ballard, ahimè, muore poi l'anno dopo, nel 2009. E ve lo diciamo perché I miracoli della vita, lo citeremo anche all'interno di questa puntata, è un'autobiografia veramente interessante, è scritta con lo stile umoristico chiaro, limpido, tipico di Ballard, che comunque sapeva scrivere anche bene. Ed è molto interessante perché intanto approfondisce molto meglio di come faremo noi alcuni, cioè, diciamo il cuore della sua poetica, quindi alcuni temi suoi centrali, Crash, la fiera dell'atrocità, le racconterà bene anche proprio da come gli sono nate in testa, e quindi è molto interessante. E poi racconta il primo periodo biografico, il primo periodo della sua infanzia, che insomma è stato molto interessante, è stato particolarmente interessante e denso di cose. Altra cosa interessante, altro libro che vi consegniamo è Fine millennio, istruzioni per l'uso, che invece è un libro di saggistica che però contiene una bella raccolta di saggi che Ballard ha scritto. Questo perché siamo abituate chiaramente a immaginare Ballard, a considerare Ballard uno scrittore di narrativa, cosa che ovviamente è, ma è anche particolarmente sottile e come dire, tagliente nella sua critica politica, e in questo libro Fine millennio, istruzioni per l'uso si è preso la tranquillità anche di spiegare bene che cosa ci aveva in testa. Un altro libro, che l'ultimo che vi consigliamo per iniziare, è un libricino assolutamente introvabile, ahimè, del resto anche gli altri sono introvabili in versione digitale, mentre questo invece è introvabile nella versione fisica. Si chiama Consumate il futuro, uomo e tecnica attraverso lo sguardo di Ballard, di Manuela Puvia, ed è stato pubblicato da Collane di Ruggine, un progetto di autoproduzioni che poi ha dato vita alla rivista Ruggine di letteratura fantastica. È un'autoproduzione che quindi è esaurita da tantissimi anni. Il libricino dovrebbe essere stato pubblicato intorno al 2007, quindi è finito da tanto, ma lo potete scaricare su il sito collanediruggine.noblogs.org, andate su il catalogo e lì trovate il PDF liberamente scaricabile. Ve lo consigliamo perché è un libro tratto da una tesi di laurea, ma è veramente molto molto interessante, approfondito da uno sguardo anche filosofico su Ballard e sul presente e sulla tecnica soprattutto. Appunto, poi è una tesi di filosofia, quindi ci sono degli strumenti e di analisi che, insomma, diversi magari rispetto a un linguista, rispetto a un classico studiosa di lettere. Vabbè, mi sentirei anche di aggiungere, anche in ordine di importanza per quanto mi riguarda, Ballard Land di come si chiama? Michele Neri. Mm-hmm. Che parla di Ballard, ma in generale anche lui forse un pochino più, secondo me è più interessante l'aspetto filosofico qui, però insomma è un interesse, è piccolino, è interessante, da opera, altre angolature. Esatto, da altre angolature, insomma è abbastanza divertente, più che altro perché lui è stato in contatto fisso con Ballard. Vedi. Ho letto. Cioè era proprio, aveva, perché poi Ballard appunto era uno che non si tirava indietro mai, per esempio non aveva mai levato dall'elenco telefonico il proprio numero di casa, ma dai, per cui chiunque lo poteva chiamare senza nessun problema e lui rispondeva. Ma guarda, io leggendo l'autobiografia, per quello anche la consigliavo, perché mi sono fatta l'idea di una persona veramente troppo simpatica, cioè comunque una persona super tenera, alla mano, tranquilla, che non se l'è mai tirata, con un'incazzatura addosso potente, esatto. Che però non rovesciava addosso agli altri, cioè che comunque non faceva in modo che, come direbbe qualcuno, perdesse la tenerezza, cioè comunque è una persona, almeno da quello che scriveva, sembrava molto bella. Sì, no, vabbè, ora non spoileriamo troppo, avrei veramente tanto da dire subito, quindi iniziamo con ordine. Iniziamo da dove è nato. Dove è nato? Sì, perché già quello. Già non ce l'aspettiamo, perché se uno non lo legge non lo sa, perché nasce a Shanghai. Mm-hmm. E diciamo, ma è Shanghai, Ballard non era certo cinese, ecco. No. Nasce il 30, sì, a Shanghai, perché i suoi genitori erano dei diplomatici dell'impero britannico, il glorioso impero britannico, che quindi spediscono i suoi genitori in missione diplomatica a Shanghai, e a un certo punto Ballard si ritrova durante, nel periodo per l'appunto, dell'occupazione giapponese di Shanghai. Quindi in realtà lui ci racconta nell'autobiografia questo momento particolarissimo dove si passa da un momento di euforia in cui lui racconta questa Shanghai vista da, dalla diplomazia britannica, quindi dai coloni, e ci racconta questa Shanghai fatta di feste, festini di alto bordo, di, dove la madre era, ci racconta, sempre sbronza dalla mattina alla sera. Cioè lui racconta i suoi genitori avevano un martini con un'oliva sul comodino ed era la prima cosa che mettevano in gola. Fantastico. E ci raccontava sì di questo mondo fatto di psicofarmaci e euforia e feste. E poi a un certo punto si ritrova in un campo di prigionia. Lui era molto piccolo perché era nato nel 30. Qui stiamo parlando... Allora, i giapponesi invadono, iniziano la guerra contro la Cina nel 31. Quindi l'anno dopo in cui lui è nato. Poi di fatto poi lo interneranno... Dopo. Sì, perché lui passa 2 anni tra il 43 e il 45. Quindi un po' di anni dopo, però appunto lui era piuttosto piccolo... E ci racconta anche lì di questa sua esperienza con gli altri bambini, figli di britannici, di altri diplomatici. E in realtà, buffamente, lui ci racconta, ora, non facciamoci l'immagine di un campo di prigionia dove lui era, sì, il campo di concentramento, no. Seviziato. In realtà ci racconta di uno dei periodi più belli della sua vita, perché aveva, ci racconta di una solitudine estrema rispetto ai suoi genitori, perché i genitori... come ve li abbiamo descritti prima, ve li potrete immaginare, non se lo cagavano lui sostanzialmente, quindi lo lasciavano da solo a giornate, e lui però finalmente in questo campo di prigionia poteva stare con altri bambini, giocavano, avevano tutto questo spazio verde in cui giocare e si nascondevano, immaginavano tutti i mondi strani, e lui se la ricorda come un mondo bellissimo, sì. Il che fa abbastanza effetto, però tant'è. Sì, perché di fatto, insomma, una volta che i giapponesi invadono la Cina, ma insomma in quei territori continentali che invadono, quando trovano dei diplomatici, comunque dei civili, non dei militari, i giapponesi li internano dentro dei campi di internamento, di fatto che sono circondate e non possono uscire. Però hanno la casetta, hanno... Cioè... Esatto, non sono campi di concentramento chiaramente... alla Nazi style, ma nemmeno quelli che i giapponesi poi metteranno in atto durante la Seconda Guerra Mondiale contro i soldati americani, che erano belli tosti invece, si sa, di grandi torture, eccetera, eccetera. C'è anche filmografia, fiore di filmografia su questo. E ovviamente non era neanche il trattamento che riservavano ai cinesi, invece, ovviamente. Quindi, insomma, sì, esatto. No, ci sarebbe un bel capitolo da fare sui giapponesi in Cina, fatto un bel tritello. Horror, direi, una puntata abbastanza. Quindi questa è la sua partenza, e da qui prenderà un po' di idee per una delle sue opere più importanti, no? All'Impero del Sole, sì. Che di fatto l'Impero del Sole è di fatto la sua autobiografia, anche se non parla in prima persona, è comunque un narrativo, però di fatto è il racconto di quegli anni. Cui tra l'altro poi Spielberg ha tratto il libro. E Spielberg, scusami, il film, volevo dire, sì, ciao, il libro, scriveva anche, no, il film omonimo, e niente, però vi consigliamo di leggere il libro, ovviamente, perché... c'è un paragone. Sì, è poi bellissimo, insomma. Nel 1946 Ballard si trasferisce in Bretagna, quindi praticamente uscito dal campo di prigionia dopo poco, appunto si trasferisce in Gran Bretagna e inizia gli studi. All'inizio studia medicina a Cambridge e lui tra l'altro voleva diventare psichiatra, ma questo poi non gli riuscì, perché pare, folgorato dall'Ulisse di James Joyce, abbandonò medicina dicendo che in effetti forse non era quella la sua strada, e decidendo in qualche modo di diventare uno scrittore. Dopo, poi inizia, in realtà fece una serie di lavori occasionali, lavoretti, tra cui molto importante l'autore di testi pubblicitari, quindi conobbe da vicino il mondo della pubblicità, dell'advertising degli anni, ricordiamocelo, gli anni 50, i primi anni 50. Insomma, dopo una serie di lavoretti vari, alla fine si spostò in Canada e poi a un certo punto incontrò la fantascienza. Ma vi volevamo leggere questo pezzettino tratto proprio dall'autobiografia di Ballard, I miracoli della vita, che racconta il suo ingresso in Gran Bretagna, cioè in Inghilterra, perché era il momento, appunto, 46, quando lui, catapultato da Shanghai, quindi immaginatevi con un mondo completamente diverso negli occhi, arriva in Inghilterra. E lui dice: per la prima volta entravo in contatto con un gran numero di persone di condizione proletaria, con una tale varietà di accenti regionali che ci voleva un orecchio allenato per decifrarli. Girando nella zona di Birmingham, ero stupito nel vedere che vita triste facessero, quanto poco venissero pagati, quanto male venissero istruiti, alloggiati e nutriti. Per me erano una grande massa di forza lavoro sfruttata, più o meno allo stesso livello degli operai industriali di Shanghai. E mi fu anche chiaro, fin da subito, che il sistema classista inglese che conoscevo direttamente allora per la prima volta non era un pittoresco vestigio del passato, ma un sistema di controllo politico. Nei tardi anni 40 e 50 la gente delle classi medie vedeva la classe operaia quasi come fosse un'altra specie e per escluderla si barricava dietro un complesso sistema di codici sociali. Codici che dovevo imparare adesso per la prima volta, mostrare rispetto per gli antenati, non essere mai troppo entusiasta, stringere i denti, essere gentili con i più giovani, rispettare la tradizione, stare in piedi quando si suona l'inno nazionale, offrire la propria guida, essere riservato e così via. Tutto calcolato per creare un senso di opprimente deferenza. Nella vita delle classi medie inglesi tutto ruotava intorno a codici di comportamento che, per quanto inconsciamente, incoraggiavano a praticare la mediocrità e non aspettarsi mai troppo dalla vita. In breve, non pagavano gli inglesi un prezzo salatissimo per il sistema di autoillusione che era praticamente alla base di tutta la loro vita? Era la domanda che sembrava balzare agli occhi dalle strade dissestate e dalle buche delle bombe quando misi piede per la prima volta in Inghilterra e che in gran parte fu all'origine della difficoltà che trovai ad ambientarmi qui. Essa alimentò la mia incertezza su me stesso e mi incoraggiò a vedermi per il resto della mia vita come un estraneo e un dissidente. Probabilmente mi indirizzò nel diventare uno scrittore specializzato nel prevedere e, se possibile, provocare il cambiamento. Il cambiamento, pensavo, era ciò di cui l'Inghilterra aveva disperatamente bisogno e lo penso ancora adesso. Allora, qui vediamo diverse questioni interessanti. La prima è il nucleo della sua poetica che si sente già in queste prime parole, cioè riconoscere che la società intorno a te in realtà è una società oppressiva e la sua voglia di diventare scrittore per cambiare, per far parte del cambiamento. Tutta la sua poetica è su azione. Azione, cioè fare qualcosa davanti a situazioni irreparabili, dove sai che le prenderai mazzate nei denti, ma comunque invece si fa, si agisce su quello che accade. E questo viene proprio dall'Inghilterra, che lui conosce subito nel primo dopoguerra, che è un paese chiaramente distrutto da decenni di bombardamenti, guerra che, tra l'altro, la seconda guerra mondiale comunque è avvenuta non tanto dopo la prima guerra mondiale, quindi vuol dire che si sono perse varie generazioni di persone. Poi chi ci andava in prima linea? Ci andavano i poveracci. Poi sì, poi c'era il nobile, gli inglesi ci avevano ancora i nobili con la spada che, e come? Che guidavano, però... E poi la crisi economica conseguente, devastante. Esattamente. E è interessante questo, che lui nota la questione del classismo. Ah, perché sarà importante, perché lo riporterà pari pari in tante delle sue opere, cioè la presenza di una sorta di casta o comunque di classi diverse ma lontane fra di loro, interconnesse ma lontane. Dall'altra, poi, tra l'altro, l'Inghilterra di quegli anni era ancora... un'Inghilterra in cui fondamentalmente gli operai erano cattolici e i borghesi erano protestanti. Eh sì. E anche questo fa, chiaramente, no? Cioè, se tu hai dei modi di agire, di fare nella quotidianità diversa, eppure una religione, che poi di fatto è la stessa, ma ha dei diktat diversi all'interno della propria liturgia, insomma... Sì, senza contare tutte le colonie, tutta la retorica dell'impero e vabbè. Ecco, l'altra cosa che volevo dire è questa: gli anni 50 sono gli anni in cui la figura della corona inglese inizia a raggiungere uno dei suoi massimi. perché l'ho studiato all'università a un certo punto. Aha. Molto figo. Se si va a vedere la storia della corona inglese e della sua rilevanza, perché di fatto la corona inglese non ha potere politico. Ah no, infatti. È un potere religioso che è rimasto da Enrico VIII, per cui tutte le grandi cerimonie le fa il re, la regina. E insomma è qualcosa di una sorta di vessillo del paese che deve unire, ma di fatto non, per lungo tempo in realtà non valeva tanto. Sì, se God Save the Queen va bene, ma non sono è cose che si dicono, sì. E invece in questi anni qua, grazie anche alla Seconda Guerra Mondiale, dove la regina Elisabetta diventa molto famosa perché lei fa il meccanico di aerei da guerra, cioè si arruola un regnante, non era regina, era principessa. Un regnante che si arruola, ah! E da lì la costruzione della figura della corona come unione del popolo, nonostante il popolo stia male, qui comincia a compattarsi e Ballard lo vede. Lo vede e vede anche i segnali del suo sgretolamento, mi verrebbe da dire. Certo. Sono diversi gli autori che proprio in quegli anni lì, negli anni 50, iniziano paradossalmente proprio nel momento di massimo splendore e di massima morsa del regno, dell'impero, iniziano a vedere i segni di uno sgretolamento. Anche tutto questo complesso sistema di regole che ci diceva Ballard in questa citazione è proprio il segnale di un qualcosa a cui ti aggrappi perché non hai nient'altro. E quindi di un potere che in realtà stringe in mano niente, poi in fondo. Questo lo nota anche Mervyn Peake, il mio autore preferito di sempre, che anche lui scrive sotto le bombe durante la guerra, scrive il suo meraviglioso Gormenghast e di fatto ne crea un'allegoria dell'impero che si sta sfasciando proprio nel momento di massima propaganda, però, come dicevi. Sì, esatto. E da qui arriviamo facilmente, quindi capirete, all'inner space. Sì, perché allora, come dicevamo, Ballard ha più volte, devo dire veramente esplicitamente, rispetto a tantissimi altri autori, Dick, un autore molto politico, però non ha mai espresso le cose così chiare come l'ha espresse Ballard. Vero. Lui l'ha proprio sempre detto, che la fantascienza per lui è sempre stato un mezzo, quindi molto, molto palese. E a un certo punto, nel 62, quindi iniziamo a essere appunto, ci allontaniamo un po' dai primi anni 50, nel 62 Ballard scrive un articolo che si chiama Come si arriva allo spazio interiore, Which Way to Inner Space, che appare sulla rivista New Worlds, appunto viene pubblicato, come dicevo, nel 62. Trentenne, un Ballard trentenne. Sì, quindi insomma neanche troppo pischello, ma che inizia a scrivere la fantascienza. E di base quello segna la nascita di quella che poi viene chiamata la New Wave britannica, ma direi non solo, perché segna effettivamente una svolta nella fantascienza. E Ballard fondamentalmente cosa fa? Lui sposta l'attenzione sullo spazio interiore, sull'inner space, quindi basta spazio stellare, basta queste esplorazioni, se vogliamo, molto maciste della fantascienza classica, dove c'erano queste esplorazioni di cui vi abbiamo parlato abbondantemente anche in altre puntate. Ora basta, è giunto il momento di esplorare lo spazio interiore. Perché? Perché dentro la nostra psiche è in atto un'aggressione da parte dei mass media e della cultura capitalista e c'è una battaglia per resistere all'invadenza tecnologica. Quindi lui intravede da una parte la tecnologia come qualcosa di minaccioso, e questo l'abbiamo visto anche in altri autori dell'epoca, ma soprattutto vede la nascita della società dello spettacolo, dei mass media, dei consumi, e che tutto ciò provoca delle reazioni all'interno della nostra psiche che sono travagliate, cioè sei bombardata, c'hai una serie di informazioni e di input in qualche maniera che ti tirano per la giacca, ti spingono a comportarti in una maniera, ma tu ci avresti anche delle altre reazioni. Quindi di fatto nella tua testa c'è un vero e proprio campo di battaglia. E lui dice, Ballard dice, è di questo di cui dovrebbe parlare la fantascienza dovrebbe parlare dell'essere umano e di ciò che che ha dentro la testa e cosa lo spinge, cioè la sua reazione a tutto questo, alla modernità, se vogliamo. E quindi dovrebbe parlare della nascita della società dei consumi, dell'invasione mass mediatica, e lui lo fa, parla ampiamente delle tecnologie asservite all'industria bellica e farmaceutica, perché parla sia... ma molto esplicitamente della tecnologia come un qualcosa di appunto funzionale alla guerra e alla farmaceutica industriale, al controllo della vita degli individui, alle varie nocività che intossicano la nostra terra, di fatto il nostro pianeta, e soprattutto la logica alla base di tutto, la logica del profitto e del mercato. Tutto ciò Ballard lo scrive ovunque. Sì. Ora, dal punto di vista ecologico, in realtà poi Ballard si riconosce i danni che l'umanità sta facendo al mondo, già lo riconosce, ma non prenderà mai posizioni ecologiste. No, beh. Perché è troppo affascinato dalla tecnica, è troppo affascinato dalla fantasia, lo dice proprio a un certo punto. Però lo fa presente, cioè lui legge, infatti... No, si dice che lui abbia anticipato tante cose, abbia capito tante cose che sarebbero successe, però è anche vero che se riesci a essere nel mondo, a aprire bene gli occhi, a capire come funziona, non ci vuole un indovino, ecco, sì, eccessivo per capire quella... Ora, sai, noi ora siamo in un momento di passaggio grosso, difficile capire cosa succederà, perché è un momento di rottura. Lui invece era all'inizio della costruzione di qualcosa che avrebbe permeato l'Occidente fino ad oggi, e quindi lui già capisce, cioè è lungimirante. E comunque certe predizioni da Cassandra ce le possiamo arrogare pure noi, penso. Ma sì, certo, non ci andremo certo, tanto lontano. Certo. Quindi l'inner space sostanzialmente è l'inconscio, poi detto in parole povere, cioè non tanto povere, il contrario forse, ed è in qualche maniera è proprio un ambiente, perché Ballard ne fa proprio un mondo, è come se fosse proprio un mondo a sé stante, dove le nostre percezioni del presente, che come abbiamo detto è sovraccarico di flussi informativi, diktat, input, qualsiasi cosa, si fondono con le immagini del passato, che però noi chiaramente lavoriamo nel nostro inconscio, quindi non sono vere, reali, sono immagini già trasfigurate in qualche maniera. Tutto ciò messo insieme, rimescolato, dà vita dentro la nostra testa a una rielaborazione personale dell'esistente, in qualche modo creano un mondo. Quindi questo intende Ballard quando parla di inner space, un vero e proprio mondo. Quindi quando parla di esplorare l'inner space non è che lo dice tanto in maniera figurata, intende proprio un mondo di, come dire, rielaborazione di quello che viviamo, e bisogna conoscerlo, bisogna capire che cosa il presente agisce sul nostro inconscio. Esatto, e come questo modifica la nostra percezione della realtà, e di fatto modifica la realtà. Molto interessante, si vede bene che viene dalla cultura, l'abbiamo detto fino, tutto quello abbiamo raccontato fino dalla cultura inglese. Una cazzo di isola, quindi un mondo a sé, che con occhio al passato, la grandezza infinita, e un occhio anche al futuro, che di fatto però era un impero che si stava sgretolando. Questi temi ti portano effettivamente a riflettere poi su effettivamente qual è il mondo che ti circonda, quello che ti raccontano, forse è un po' diverso. E proprio per questo, grazie a queste riflessioni, Ballard arriva al suo concetto di tecnica, cioè la tecnica per Ballard è di fatto un qualcosa di estremamente umano, cioè la tecnica è umana sempre. Non, quindi è molto diverso dal significato al limite del religioso che gli diamo attualmente, no? Cioè, ecco, dove la tecnologia sembra qualcosa che ci cala dall'alto, ci arriva addosso, noi non sappiamo mai, cioè, non lo so, mi viene in mente l'intelligenza artificiale, di cui parliamo spesso come se fosse una realtà slegata dagli esseri umani, cioè è un qualcosa che c'è, è arrivata. Di fatto tu usi qualcosa che non comprendi, no? Non la comprendi, non sai come funziona. Ti sembra quasi mistica, è quasi un qualcosa proprio a sé stante. Come il fax. E in realtà invece Ballard ci tiene a ancorare la tecnica sempre all'uomo, esatto. All'uomo nel senso all'essere umano, e per questo non è mai neutrale, Quindi la riconduce sempre al mondo umano e a togliergli quell'aura sacrale, no? Come si diceva, proprio per il discorso che si faceva all'inizio, cioè alla sua visione di classe, dove quindi sa bene che la tecnica è qualcosa che l'essere umano utilizza per esercitare potere e dominio, e quindi perché senza di esso l'umano non sopravvive. Eh no, perché di base quello che dice Ballard è l'essere umano, beh, non lo dice solo Ballard, no, effettivamente, no, certo. L'essere umano è un animale tecnologico, perché altrimenti non riuscirebbe a sopravvivere nella natura, diciamo, e quindi ha bisogno di utensili, di tecnica per riuscire a sopravvivere. Questo fa sì che i due destini, diciamo, sono strettamente connessi, cioè l'essere umano non può vivere senza la tecnica non può vivere senza l'essere umano. Esatto, e poi appunto questa questione della tecnica necessaria per sopravvivere è qualcosa che ti cambia il cervello. Non a caso gli ominidi, una volta avuto il pollice opponibile, cominciano a costruire gli utensili e più costruivano utensili, più il cervello si ingrandiva, no? Si sviluppava. E lui, nello stesso modo, lo riporta sull'uomo in sé, in modo generico, generalista, insomma, perché la tecnica è vedere oltre il presente. E trasforma la dimensione del possibile. Aspetta, perché questa frase è fighissima. Il senso della tecnica, quindi, sta tutto nel vedere oltre il presente la dimensione del possibile e trasformare il già dato. Cioè, tu prendi qualcosa che c'è già e lo trasformi. Allora, il tuo cervello è capace di trasformare qualcosa che già c'è. Poi, trasformarlo in qualcosa di positivo o negativo, poi quella è un'altra questione, perché poi, di fatto, come ci dice Ballard, l'uomo è spinto a trasformare, però spinto dalla sete di potere. Eh sì. Di controllo, di arraffamento. Eh sì. Sì, anche qui c'è tutta la questione che si diceva all'inizio del fatto che Ballard vede la fantascienza e la tecnica e la tecnologia come un qualcosa di trasformativo, e quindi tutta la sua letteratura è impermeata, come dicevi te all'inizio, di questo senso di trasformazione. La tecnica serve a poter trasformare, chiaramente ha ben chiaro che la tecnica generalmente gli esseri umani la usano per trasformare in senso di potere e dominio, non sempre, ma ahimè lo è. Sì, sì, cioè il coltello, la felce che usi per tagliare la carne, però la usi anche per cacciare. È la vecchia questione. Esatto. Allora, tutto sommato, quindi non sono più miracoli, ma è qualcosa riportato all'umano e di conseguenza mai neutrale. No. La tecnica non è mai neutrale, ma è sempre umana e di conseguenza è schierata. Esatto, però lui la vede, devo dire questo in maniera, per aprire un varco, la vede come un modo per riconciliarsi con il mondo, con la natura, diciamo. Cioè, certo. È grazie alla tecnica, secondo Ballard, che in qualche maniera l'essere umano supera la sua... No, beh, non è vero, non la supera, però viene a patti con la sua mortalità, con la sua fragilità, per riuscire, e in qualche modo si riconcilia. Occhio che Ballard non dice mai che quindi la domina, non ha nessun desiderio di potenza, devo dire, suoi libri. No. Anzi, ma c'è una questione di riconciliazione, di non sentirsi sempre braccato e sottomesso, ma in qualche maniera riconciliarsi e arrivare a una serenità, una serena convivenza. Questo è quello che auspica in realtà Ballard dalla tecnica. Poi quasi tutta la sua letteratura parla di tutt'altro che mondi sereni e conciliatori, ma invece di una tecnica che ha devastato e assillato l'essere umano e il mondo che lo circonda. Esatto, di base ai suoi personaggi spesso e volentieri va male. Sì. Va male, ma loro l'affrontano a testa bassa e in qualche modo trovano la quadra della situazione. Appunto, non è più un miracolo, ma il miracolo è quello che vi facciamo sentire noi. Thank you. pain. See the mess and trouble in your brain. Anger you retain, pressure rocks you like a hurricane. Is it time for you to jump into the next train? Change of hand, make a stand, I can see your heart change. Wake up, no more nap, your turn is coming up. You feel lazy, but stop the fantasies and bubble bust. If you need to hear, go for it. I will teach you how to feel the things so close to you, connect it all. Cyberheads, you should think twice, cause they will make your brain melt. New device, better price, keep you feeling impressed. Stop it all, every day we'll live a miracle. Unpredictable, you don't need an upgrade anymore. Can't you see the link? Don't worry, I will teach you how to take the pill to feel the thrill and touch it all. Ed eccoci qua, queste sono le porte di Tannhäuser, stiamo parlando di Ballard e della sua fantascienza, del suo inner space. Eh sì, e chiaramente questo era un po', diciamo, l'inizio della sua poetica. L'inner space è uno dei concetti più importanti che troviamo nella letteratura di Ballard. Abbiamo detto che inizia a scrivere di fantascienza, pubblica questo articolo che di base è un articolo saggistico in realtà, ma nel frattempo inizia a scrivere anche narrativa e il suo primo romanzo fu Il vento dal nulla, The Wind from Nowhere, nel 62 sempre, che è un po' il primo romanzo anche di questa tetralogia della catastrofe chiamata, o degli elementi, viene trovata in tutti e due i modi, che potremmo definire di genere catastrofico, perché in effetti è sì. Così, anche se poi in realtà Ballard ci ritornò un po' sopra, era anche i suoi primi romanzi, però di fatto ebbe un buon successo e gli, diciamo, spianò un po' la strada per la carriera di scrittore. Oltre a, appunto, al vento da nulla, ci furono Il mondo sommerso, The Drowned World, Terra bruciata, The Burning World e Foresta di cristallo. Esatto, potete ritrovare la raccolta che hanno fatto, purtroppo, Mondadori, ma Sì, che è quasi contiene tutto. Proprio loro. Sì, ma è purtroppo... Sì, tra l'altro, piccolo inciso, la Shake aveva i diritti per Ballard e li ha venduti. Ma infatti, queste follie... Sì. Vabbè, boh, probabilmente polemica. Ma tipo, sai, ti sta per chiudere. È probabile che chiuda, o cioè, hanno messo in integrazione la Epli. Ah, ecco. La casa editrice Epli. Ecco. Ma forse è successa una roba tipo alla scena. Cioè, litigi interni, perché di fatto vanno bene, di fatto è un'azienda sana, però litigi interni su dove andare, su vendere o non vendere alla grande distribuzione o rimanere indipendenti, hanno messo cassa integrazione tutti e 100 i dipendenti. Forse alla Shade una roba similare successe. In ogni caso, il nostro Ballard fece questa tetralogia, appunto, quattro romanzi sulla catastrofe, che, come avrete notato, erano anche basati sui quattro elementi aristotelici, sì. Aria, acqua, terra e fuoco, più un quinto elemento, il tempo, che non domina l'amore. La foresta di cristallo. Per Luc Besson è l'amore il quinto elemento. Esatto, esatto. No, lui c'aveva il tempo. E, beh, sì, chiaramente, come avrete intuito, si tratta di romanzi che vedono delle catastrofi, vari tipi di catastrofi. Lui, secondo me, un po' si diverte pure a immaginare l'apocalisse, un disastro, e vede come gli esseri umani possono in qualche modo cavarsela in questi contesti. E però anche qua Ballard lo fa in una maniera ben diversa da tanta altra letteratura fantascientifica che ha affrontato il tema catastrofe. E in questo caso lui come dire, immagina le catastrofi perché sono delle situazioni di crisi, anche di collasso in qualche modo della struttura spazio-temporale, perché di base in tutti questi romanzi i protagonisti si trovano spaesati in un mondo che non è più quello che conoscevano, e si ritrovano in un ambiente in cui le conoscenze acquisite non tornano più, non sono valide, non valgono. E quindi le condizioni dell'esistenza devono essere costantemente verificate. Quindi è come se fosse un enorme grande test continuo, una grande prova che le protagoniste di questi romanzi si trovano a vivere. E però Ballard di nuovo utilizza questa immagine della catastrofe come un evento che in qualche maniera annulla la distanza tra il soggetto e il mondo, perché abbiamo detto che l'individuo al suo interno si scatenano delle battaglie, ci sono dei rivolgimenti epocali. Ecco, qui si annulla la distanza, cioè anche nel mondo si scatena una battaglia, si scatena una catastrofe, e quindi l'individuo e il mondo in qualche maniera vivono dello stesso destino. Mm-hmm. E questo per Ballard è un modo per rendere collettivi anche i traumi e gli eventi catastrofici degli individui. Per Ballard l'individuo è sempre collettivo in realtà, cioè non separa mai, non parla mai di drammi individuali che non hanno relazione col resto del mondo. Sì, sì, è vero, è vero. È vero. Per esempio, facciamo un esempio, il vento del nulla? Dal nulla, sì, perché arriva sto vento. Fondamentalmente, esatto, a un certo punto comincia a spirare questo vento, tutto sommato piglia bene, gli esseri umani sono contenti, cioè, è un vento, sfruttiamolo, appunto, si inizia a capire come poterlo sfruttare, siamo contenti. Però questo vento non smette, anzi aumenta sempre di più, finché non comincia a creare i primi grandi danni. Allora l'umanità comincia a preoccuparsi. Mm-mm. Che si fa, che non si fa, e intanto viene distrutto tutto. Allora dobbiamo costruire un palazzo che riesca a resistere, e allora è lì la collettività, l'unione per cercare di sopravvivere, perché nel mentre comunque gli umani vengono spazzati via, riusciranno a creare un edificio, per non spoilerare. Un edificio in qualche modo cerchi di resistere, ce la farà a resistere a questo vento? Sì o no? La fine non è scontata. No. Non è scontata, perché è diversa dal solito. Dai, c'è poco da fare, per quello non volevo entrarci. Alla fine è una roba non troppo lunga, te la leggi abbastanza veloce. Ma quindi... sì, è bello tra l'altro. E però appunto la catastrofe in questo caso, come si diceva, non è un evento distruttivo da cui poi tu ti devi leccare le ferite e vabbè e provare a farcela. È un agente di trasformazione, cioè in qualche maniera ti apre nuove possibilità. Quindi anche qui in qualche maniera, come si diceva prima, ti riconcilia col mondo ancora una volta, perché i tuoi, il destino tuo, dei tuoi, insomma, movimenti personali, individuali, dei tuoi logorii, sono gli stessi che sta vivendo il resto della collettività. Fra l'altro, neanche solo gli esseri umani, ma tutto proprio il territorio, il terreno che c'è intorno. E quindi in realtà è interessante, chiaramente sono i primi romanzi di Ballard dove comunque, devo dire, anche lo stile è abbastanza ancora lineare. Ballard è noto per essere molto surrealista, ecco, sì. Qui ancora no, cioè infatti qui un po' rinnegherà, il primo lo rinnegherà. Sì, perché di base è ancora piuttosto classico, anche se comunque si intravede il Ballard anche di poi. Però all'inizio, insomma, è abbastanza strano come romanzo ballardiano. Però appunto anticipano, no? Per esempio, il mondo sommerso è lo scioglimento delle calotte polari. Sì. Siamo negli anni 60. È abbastanza impressionante questo. Sì. Che già si sapeva, già c'erano i primi allarmi. Però è quindi appunto un mondo sommerso creato dallo scioglimento. Perché? Perché l'uomo appunto ha fatto casino. Terra bruciata. Invece è un mondo in cui l'acqua è scarsa, cioè, quindi arriva dopo il mondo sommerso, invece c'è troppa acqua. In questo caso è il contrario, terra bruciata descrive un mondo in cui l'acqua è scarsa, dopo a un certo punto c'è una siccità talmente lunga che i fiumi non esistono quasi più, la terra è polvere perché quindi non è più fertile. E quindi ci si dirige verso gli oceani in cerca di acqua, però si sa che l'acqua dell'oceano è ottima, bisogna trasformarla, no? E quindi ci sono la siccità, già mi ricordo, creata dai rifiuti industriali gettati nell'oceano, e quindi ti avvicini a quello che è già inquinato. E tra l'altro, appunto, gli oceani inquinati, le microplastiche sono 62 una delle, comunque. Dice sì. Che ci sta entrando nel cervello o nei feti, dice. Chissà. Perché utilizziamo. Vabbè. Questo ancora non c'era arrivato Ballard, però. No, però per dire, l'argomento l'aveva già tirato in ballo. Ma tra l'altro, ricordiamoci che adesso leggere i suoi romanzi può essere abbastanza. Come dire, per certi versi, l'argomento catastrofe è un argomento ormai abbastanza sulla bocca di tutte, dobbiamo dire. Ma qui stiamo nel 62, all'inizio degli anni 60, ma al di là della questione previsione c'è la questione del fatto che era un momento storico in cui si spingeva un progresso, un consumismo, era l'epoca felice in cui ci si doveva rialzare dalla guerra, si doveva vivere nell'abbondanza. Quindi c'è il boom economico. È boom economico in pieno e non si doveva parlare di cose deprimenti. Lui parla di mondi carenti, cioè parla della carenza, tutto andato a schifio. Quindi insomma non togliamo dal suo contesto storico, perché ovviamente era la catastrofe vista in quel momento, era anche un voler riportare alla luce cose che si volevano anche dimenticare. Però è vero anche che c'è il Vietnam, pensavo, non c'era solo il boom economico, c'era lui era in Canada, e per cui di fatto se l'è vissuto. Certo. E poi gli Stati Uniti, sì, poi si va negli Stati Uniti o rimane sempre in Canada? No, rimane in Canada. Non vada negli Stati Uniti. No, mai. Non ci va a vivere, no. Sì. Però insomma, c'è anche quella roba lì, c'è il Vietnam, il Canada, insomma, sì. La Corea e il Vietnam. Ma certo, è chiaro che era una rimozione collettiva a cui Ballard si opponeva. A seguito di questa tetralogia pubblica una caterva di racconti che fra l'altro trovate in varie raccolte. Vi invitiamo a leggerli perché sono veramente belli, sono uno più bello dell'altro. Sono molto surreali, come dicevamo, alcuni sono proprio, come dire, godibili nella loro semplice surrealismo, cioè proprio sono storie divertenti, surreali, molto divertenti. Altri sono invece un po' più taglienti. E di base una delle cose che le accomuna è il fatto che ci sono queste persone che si trascinano senza capire cosa gli sta succedendo, cioè stanno in questi mondi in balia di un capitalismo estremamente aggressivo, pervasivo, e loro stanno lì che non capiscono bene che cosa gli sta succedendo. Sì, cioè di fatto Ballard spesso non dà una risposta. Non si sa perché è nella prima tetralogia, però il vento la nulla. Non è che lui ci dirà mai da dove arriva. No. Non è importante. Questo è sì. E tra l'altro, così per fare una chiosa, la donna, giusto, giusto, i personaggi femminili in Ballard sono particolarmente bersagliati dalla società del consumo, e Ballard lo sottolinea moltissimo. Io devo dire, anche per questo amo molto Ballard, perché le figure femminili in Ballard sono sempre meravigliose, cioè nel senso sono molto complesse, molto approfondite, hanno dei ruoli mai stereotipati, anzi veramente belle, e sono spesso delle donne che hanno delle reazioni molto violente, estremamente violente, perché subiscono una violenza maggiore, e quindi Ballard riesce in qualche modo a far venire fuori questi entrambi lati della violenza. E questo è, insomma, anche particolarmente scioccante quando lo leggi. Ma secondo te la figura della regina Elisabetta ha aiutato nella società conservatrice inglese a emancipare un po' più la donna? Oddio, che domanda. Interessante, mi è venuto in mente ora, non ci avevo mai pensato. Chissà, forse no, perché comunque è un regnante, è un'altra classe. Non lo so, io non credo molto all'empowerment come certo, metodo di, certo, di così di liberazione femminile. Però, chissà, no, devo dire, non, ora mi cogli di sorpresa. Però, sì, boh, per certi versi, sai, io sono anche abbastanza laica che qualsiasi tutto fa brodo a un certo punto. Certo. Però è pure vero che un certo cioè, ecco, il potere non mi torna mai come soluzione a... Anche alla liberazione, ecco. No, è che mi domandavo, cioè, perché ho pensato a questo, perché appunto queste figure femminili veramente interessanti, belle da leggere e forti. Ah sì, sì. E forti. E mi domandavo, da dove la... cioè, come è aggiunto a questa visione della donna? Ma allora, non lo so, però una cosa che so, che c'è scritta molto chiara nella sua autobiografia, lui aveva per esempio un rapporto con la moglie bellissimo, moglie che muore, ahimè, molto presto, e di cui lui sentirà la nostalgia per sempre. E molto spesso, lui questo scrive nella sua autobiografia, le donne sono un po'... un modo anche per ricordare la sua moglie, a cui doveva volere un gran bene, ecco. Okay, okay. Però ora questo mi spingo un po' troppo nei dettagli biografici per immaginare cose che ovviamente non sì, so. Sì, va bene, sono illazioni. Però giusto, ecco, sicuramente era, ecco, non lo so, a me viene spesso Ballard lo accostiamo a Dick come tipo di certo, scrittura. Ecco, Dick era completamente misogino, come abbiamo visto, c'era un personaggio che oggettivamente con le donne aveva un rapporto pessimo e le donne avevano un rapporto pessimo con lui. Sì. Mentre invece Ballard, non lo so. Vabbè, magari anche tutto grullo e drogato. Sì, capito, no. E non a caso. Ora, magari Ballard io lo sto idealizzando, ora sembra che sia il mio eroe, però ecco, non lo so, mi sono fatta... Fino a prova contraria è ma un fatti, nostro, dai. Ma infatti, ora se nessuno se qualcuno ci scrive parlandoci male di Ballard, guarda... C'è un tipo che ho visto, mi ricordo su quale social della nostra area, che diceva, perché era una differenza fra noi e quegli altri, che noi fanculiamo tranquillamente se qualcuno scazza di brutto. Sì, sì, è vero. Quindi siamo pronti a rinnegare Ballard, sì, però speriamo di no. Però dai, no, per favore, non ci toccate Ballard, dai, sennò veramente non ci abbiamo più certezze in questo mondo. Allora, però le certezze invece però di Ballard arrivano dopo, perché gli anni 70 sono anni splendidi di produzione per Ballard, perché arriverà quel gran capolavoro della mostra delle atrocità, The Atrocity Exhibition. Esatto, allora la mostra delle atrocità viene pubblicata nel 70 proprio, tondo tondo, ed è un po' uno dei suoi capolavori. Io penso, io lo metto insieme a Crash, ce ne sono vari, insomma, tra cui secondo me anche Tanti racconti sono bellissimi. Però, sì, sì, certo, certo. Però effettivamente la mostra dell'atrocità... Tra l'altro c'è un'antologia messa in ordine cronologico di solo i racconti brevi di Ballard, ora ve la ritrovo. No, strabella, sì, sì, sì, ma io l'ho usi, cioè ce l'ho, alcune antologie sono bellissime. Comunque sì, la mostra dell'atrocità o la fiera dell'atrocità, secondo la traduzione, sono 15 racconti che lui in realtà chiama anche romanzi brevi, insomma, sono, però di fatto sono racconti in cui, guarda, come dicevi giustamente prima, il filo comune, oltre al protagonista che ricorre in tutte questi racconti, è l'ossessione maniacale per la guerra del Vietnam. Sì, sì. Poi c'è la psicopatologia, la pornografia, il potere dei media, le vittime di incidenti stradali, questo lo vedremo anche in Crash, le icone del sogno americano, rigorosamente morte, Quindi diciamo ci sono vari elementi che arrivano quasi come dei flash, che sono chiaramente la somma o quantomeno degli esempi della società che Ballard vuole descrivere. Tra l'altro, parlando di previsioni, in questo libro, nella Mostra della Città, Ballard prevede 11 anni prima l'elezione a presidente di Reagan, cioè prevede l'elezione di Reagan, immagino che l'avesse buttata lì come una butade, cioè secondo me lui era tipo, ora dico una cazzata, metti che... Ma cioè è come Trump in Ritorno al Futuro, capito? Che è presidente degli Stati Uniti d'America. Esattamente, cioè che secondo me volevi dire una cazzata, hai detto, oh guarda ora proprio ho capito, e poi è come se facessimo presidente Reagan. E invece, hai visto, è andata male. Comunque Fanucci chiaramente ha pubblicato la serie in 3 volumi divisi per, tipo il primo volume dal 56 al 62, quindi sono tutti quelli pre. Bellissimi tra l'altro. Allora, questi romanzi, sia La Mostra della Triocità che Crash, di cui parleremo un po' meglio dopo, c'è sempre anche lì una catastrofe, ma questa volta la catastrofe è provocata dall'ipertrofia tecnologica che da un lato modifica di fatto il paesaggio, perché lo modifica davvero, perché lo annulla in qualche maniera in un incubo popolato da personaggi di celluloide, notizie patinate, il vuoto della pubblicità, e dall'altro lato, quindi come svuota il mondo esterno, invade il mondo interno, l'inner space, sovraccaricandolo di informazioni e stimoli. Se vi sembra che questa cosa abbia a che fare con il nostro presente, è esattamente così. Arriva in fondo. e fondamentalmente media questa maniera ogni possibile esperienza, ogni possibilità di esperienza tattile, fisica, vera, inducendo dei falsi bisogni attraverso il linguaggio pubblicitario. Tac! Eccoci. Eccoci. E siamo a noi. Siamo a noi, e molto bello il linguaggio stilistico con cui Ballard sceglie di raccontarci questo, cioè non lo fa attraverso un romanzo lineare, ma lo fa attraverso dei flash di fatto che bombardano il nostro cervello, quindi la mostra delle atrocità è letteralmente questo. E qui l'industria della comunicazione, di cui peraltro Ballard, come abbiamo visto, ha una buona conoscenza perché ci ha anche lavorato e questo ricorre nei suoi romanzi, riesce a creare una distanza incolmabile tra il reale e il soggetto, perché i prodotti pubblicitari della comunicazione deformano il vero, quindi tu a un certo punto ti ritrovi in questi mondi dove non sai più cosa è vero e cosa è falso, o magari lo pensi di sapere, ma perché è tutto molto deformato. E quindi c'è un'estrema difficoltà per l'individuo di distinguere il mondo, quello percettivo, reale, tangibile, da le sue rappresentazioni, in qualche maniera, che sono finte, che sono finzione. Quindi, come avete capito, tendenzialmente c'è un potere che in qualche modo indirizza l'esperienza del reale dell'individuo. Sì. E lui questi romanzi, racconti, microromanzi, li inizia a scrivere a metà degli anni 60, quindi come dicevamo, proprio in questo momento di contrasti di molto cromatici, proprio grossi, tra un'epoca dell'abbondanza, appunto così come viene distorta, così come viene raccontata, e un mondo di atrocità che Ballard mette in relazione molto stretta. E quindi sono delle schegge impazzite in qualche maniera, sono conversazioni, notizie, dati, immagini, sono proprio un bombardamento. Sì. E quindi niente, questo chiaramente è anche proprio un voler mimare quello che poi succede nel nostro inner space quotidianamente, e quindi chiaramente anche portandoti davanti quello che poi succede al tuo io, alla tua al tuo individuo, alla tua identità. E ora invece, vabbè, no, niente, sempre invece la mostra dell'atrocità, vengono messi in mostra un po', come dicevamo, tutti questi simboli della società tecnologizzata. Quindi, oltre a quello che dicevamo prima, la pubblicità ovviamente, ma c'è anche i simboli tangibili, quindi l'automobile, che sono proprio archetipi, la macchina fotografica, la televisione. Ricordiamo, anni 60-70. Il calcolatore, cioè il calcolatore, bello, il computer. Niente, e quelli sono in qualche maniera dei feticci, dei simboli che in qualche maniera appunto contribuiscono a deformare la realtà che hai di fronte. Certo, no, quando si diceva, scusami, prima diceva delle false necessità. Cioè, gli anni 60 sono quelli in America, nei paesi anglosassoni, in cui si ricerca lo status sociale dato dalla macchina, dalla televisione, dagli elettrodomestici, in cui la donna è in un momento più ampio, in cui viene richiusa in casa, certo, dietro agli elettrodomestici di cui ha bisogno. No? Guarda un po'. E però la cosa che accomuna tutti questi simboli è il fatto che ti allontanano dalla percezione diretta. Cioè, se ci pensiamo, l'automobile ti allontana dalla strada. Sì, sì, è vero, è vero. La macchina fotografica. Esatto. Cioè, e tra l'altro tutta questa poetica era, come dire, non so chi ha preso da chi, però Polvilio ne scrive benissimo quando racconta appunto della percezione visiva dell'occhio che viene in qualche modo menomato grazie alla televisione, alla macchina fotografica, alla videocamera. Cioè, a un certo punto c'è qualcosa che si frappone tra te e il mondo. Tra l'altro, lui si vive, non lo vive, ma lo studierà, la trasformazione della radio, perché la Seconda Guerra Mondiale in America, no, ma anche in Inghilterra, con Churchill, la radio diventa un mezzo per, sì, va bene, se vuoi tenere unita la società, ma per controllarla, per tenerla buona, la propaganda, esatto, non a caso i grandi totalitarismi, dalla Germania all'Italia, al Giappone, creano l'Istituto Luce Italiano, cominciano a crearsi tutte queste macchine del controllo e del consenso. Sì, e la cosa bella, l'intuizione che ha avuto Ballard, secondo me, è quella di capire che questo controllo avviene attraverso un intermediario che viene messo tra te, tra il tuo corpo, esatto, e la tua esperienza, esatto, corporea e il resto del mondo. Esatto, anche perché qui non ci sono più i totalitarismi, o almeno non ci sono quelli manifesti, dichiarati. Ci sono, esatto, quelli più nascosti. Eh sì, e quindi la radio è semplicemente un modo in cui tu ascolti non direttamente, cioè quindi non ascolti le persone, ma le ascolti attraverso un mezzo tecnologico, e fa buffo dirlo attraverso un microfono e in radio, però è così, evidentemente la tua percezione del mondo si modifica in qualche maniera. E questo ovviamente senza voler demonizzare sempre la tecnologia, però è vero che a un certo punto si frappone qualcosa tra te e la tua percezione corporea. E infatti, ora non mi ricordo se l'abbiamo scritto qui più avanti, ma gli anni 60 sono gli anni dello sbarco sulla Luna. Va bene? Che è stata una questione epocale. Cioè l'uomo ha messo piede fuori dal proprio pianeta d'origine. E questa cosa nel giro di pochi anni muore, di fatto. L'uomo in realtà smette di sognare, di andare, cioè rimane una questione di lotta, di supremazia morale tra le superpotenze, ma di fatto l'uomo smette di sognare. Qualcuno direbbe perché è la volpe e l'uva, cioè come te riesce? No, esatto, proprio perché è assuefatto a quello che invece la Terra gli sta dando e falsamente crede di aver bisogno, diciamo. E quindi di fatto la tecnica che doveva portarci alla grandezza, lo dice proprio Ballard, non mi ricordo dove, ma l'avevo letto, e poi di fatto in realtà no, ci riporta giù invece di portarci su. Eh sì. E tre anni dopo della mostra dell'atrocità esce Crash. Crash è secondo me veramente un capolavoro, dovete avere un po' di pelo sullo stomaco, ma comunque è meraviglioso. E di fatto riprende in dosi massicce, cioè effettivamente parecchio più così hardcore rispetto a prima, il tema anche degli incidenti stradali. E e qui lo vedremo, è una cosa molto particolare, un'intuizione veramente geniale di Ballard, che poi ha dato vita veramente al cyberpunk, della fusione tra carne e macchina. Nel 96, tra l'altro, Cronenberg ne trae un film, il famoso Crash di Cronenberg, bellissimo anche quello, che vi questa volta vi consigliamo di vederlo, ovviamente anche di leggere Crash, ma insomma sono bellissimi entrambi. Questo c'è nell'autobiografia di Ballard, viene raccontato molto bene. Lui non solo ha scritto il libro, a un certo punto il libro parla sostanzialmente, ora non vi facciamo la trama perché non ha neanche troppo senso, perché è completamente surreale come tutte le cose di Ballard. Comunque diciamo che parla delle ossessioni per gli incidenti, cioè a un certo punto c'è un'ossessione che questo protagonista ha per gli incidenti mortali in automobile, quindi macchine che si schiantano e persone, corpi dilaniati da incidenti automobilistici. Questa cosa qua non solo ci ha scritto un libro Ballard, ma per lanciare questo libro, per presentarlo, lui a un certo punto fa una mostra dove sostanzialmente, senza spiegare niente a nessuno né di cosa si sarebbe trattato, mette in scena Crash. Quindi fondamentalmente fa una mostra fatta di enormi foto. Qui c'è un riferimento chiaramente anche a... oddio, come si chiama? Non mi sta venendo. Andy Warhol, che anche lui ovviamente ha trattato questo tema. Quindi fa una serie di foto di incidenti stradali e prende fisicamente, facendo carte false, tra l'altro, perché ottenere permessi per fare ste robe racconta un delirio. Prende delle, esibisce in questa mostra delle grandi macchine incidentate, completamente distrutte. Ora, lui questa cosa non la dice a nessuno, cioè Crash ancora non era uscito il libro, fa uscire questa mostra e fa un vernissage di questa mostra, un'inaugurazione, dove fa fondamentalmente, mette musichette, presenta queste opere che sono, vi potete immaginare, agghiaccianti, e fa servire fiumi di alcol. Quindi aperitivi e alcol a volontà, gratis a chiunque viene. Invita il jet set, un sacco di gente. E cosa che neanche lui aveva previsto, che rimane atterrito, praticamente si scatenano delle orge all'interno di questo vernissage e finisce in una mega orgia, giuro. Quindi lui dice, ok, io avevo scritto Crash, a questo punto, cioè non pensavo di averci dato così tanto, ci ha dato parecchio, perché fondamentalmente la questione morbosa e devastante di simbiosi tra la carne e la macchina, unita alla morte, alla mortalità, è qualcosa che evidentemente colpiva gli esseri umani in una maniera che neanche lui aveva previsto. Quindi Crash fondamentalmente è incentrato, come dicevamo, sull'incidente, che è una metafora ovviamente dell'incontro tra l'individuo il corporeo, cioè l'essere umano, e la macchina, ma per lui è il modo per arrivare a definire quanto l'impatto tecnologico possa in qualche modo essere in grado di plasmare, di fatto, di ridefinire il nostro rapporto con il corpo e con il sesso, anche perché chiaramente la macchina si mette in mezzo pure lì. Quindi in una società dove tutto viene concettualizzato di base, lo scontro tra corpi e macchine paradossalmente è quello che riporta in primo piano la fisicità. La fisicità della macchina distrutta, mortale, incidentata è quella che ti riporta alla connessione con il tuo corpo. È una via tortuosa e stranissima, però effettivamente per qualche strano destino arriva tantissimo. È un po' un linguaggio della carne che poi viene ripreso da Cronenberg in praticamente tutti i suoi film e in tantissimo cyberpunk, e che la carne finora era resa muta in qualche maniera, dal progresso scientifico, come l'abbiamo visto prima, la tecnologia, e che torna a esprimersi attraverso la violenza che si sprigiona nell'incidente automobilistico, quindi un trauma che riporta al centro della questione la carne, con tutta la sua anche sporcizia, come dire, vabbè, mortalità, e che chiaramente ha a che fare con il contrario, che è invece la macchina settica, senza sangue, senza fluidi e perfettamente controllata. Sì, sì, certo. Poi quando parliamo di macchina, chiaramente stiamo parlando dell'automobile, stiamo parlando delle macchine, della fabbrica, del braccio meccanico che monta una vite o con la crea, insomma, no? Cioè, sì, in senso lato, ecco, di macchina. Anche se chiaramente Ballard sceglie l'automobile anche perché, non solo perché fa questo riferimento, ma anche perché è chiaramente uno status symbol. Cioè, certo, certo. Assolutamente. Allora, abbiamo le ultime chicchette, diciamo, per stasera, che sono altri libri da non perdere, ma forse ci riserviamo di prendere la volta prossima, magari sì, almeno direi parte della puntata, magari, se abbiamo voglia, nel senso che ora noi parleremo di due romanzi poi. C'è però una produzione dagli anni 70 in poi, negli anni 80, fino ad arrivare agli anni 2000, poi ci sarà l'ultimo, la biografia e la fine, la morte. C'è roba molto interessante, tra cui L'Impero del Sole, sì, che è dell'84, quindi insomma c'è ancora un po' da raccontare, ecco. Dai, ci tocca. L'avevamo detto, peraltro, che si facevano due puntate almeno. Esatto, quindi se vuoi ci fermiamo giusto due minuti e poi ultimi due consigli su due titoli che ci sono particolarmente piaciuti, oltre a quelli che abbiamo già detto, perché di fatto poi anche quelli, ma riprenderemo anche la prossima puntata, quindi insomma restate comunque ancora con noi, non è del tutto finita. Sharp tools on full limits. Dope record, go call Guinness. This moment, let's own it, yeah, we all in it. One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish, then turn that grit to gold. One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish, then turn that grit to gold. Let's get busy, yeah, who's with me? All these lights and they oh so pretty. Just one night to live like kids. See, I'm on fire and it's my city. Let's get busy, come on, who's with me? All these lights and they oh so pretty. Just one night to live like kids. See, I'm on fire and it's my city. You see, the night is on my mind, making music is on the table. I'm able to do the limbo, get low and get on the Maybelline. Makeup girlies are dancing, not on the pickup, not like it, but no romancing. The kids in the hall, we ballin', we callin' the spirits of the fallen angels. Hands to the sky, let them know that we know that they daring, sharing the rhythm given by God to the people, equal or not. What's the half like kids that get caught in the darkness? One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish, then turn that grit to gold. One foot in the government, one foot in the soul. Mix up all the rubbish, then turn that grit to gold. Find that grit to gold. Three, turn that grit to gold. One. Zan zan. Infinity si chiama questa. Infatti, cos'è? Infinity Epic Futuristic Music Mix. Tra l'altro era specificato no used of AI, insomma è tutto fatto a mano, dice. Oh, via. No, noi ci vogliamo ridere. Certo, ma io in realtà sono un po' pro AI, ti dirò. Allora, guarda, è così, è una battaglia durissima. Cioè, vabbè, ma perché io c'ho lo sai, c'ho la mia visione della tecnologia particolare. Tutta mia, sì. Per cui bisogna... Cioè l'addomesticamento, cioè non lo so, non è il momento di parlarne. Allora, due grandi titoloni volevamo consigliarvi intanto di Ballard. Partiamo dal meraviglioso L'isola di cemento. L'isola di cemento è veramente straniante, perché è un libro, io ve lo consiglio perché secondo me è anche una buona partenza. È molto surreale, come del resto tantissima letteratura di Ballard, come abbiamo già detto. La trama è praticamente inesistente, ma c'ha due temi fondamentali di quelli che piacciono moltissimo a Ballard. Uno, l'incidente automobilistico, come abbiamo già visto, e quindi niente, il protagonista si schianta in macchina, non è uno spoiler perché avviene subito e non è assolutamente questa la questione. Lui a un certo punto si ritrova in una grande aiuola spartitraffico. E questo è l'altro grande tema di Ballard, ovvero questi non luoghi, questi spazi dove l'essere umano si ritrova, sì, spaesato, senza capire dove è, no? Quindi geniale, lo centri commerciali, geniale. Aeroporti e questa aiuola spartitraffico molto geniale. Grande, dove lui a un certo punto si ritrova, perché lui è in questa... sta guidando in questa sua automobile sfrecciante su questa autostrada e si ritrova per questo incidente sbalzato su questa aiuola, da cui non riesce a uscire, un po' perché è rimasto ferito abbastanza gravemente, infatti ha perso conoscenza, si risveglia dopo un bel po', ma poi anche perché è una specie di altro mondo in qualche maniera sta aiuola, cioè tu non riesci a uscire perché intorno c'è tutta sto flusso di macchine, di autostrade che ti circondano e lui si ritrova lì che non riesce a uscire in questo non luogo ed è spaesato, e parte tutto un suo viaggio, trip per cercare di trovare soccorso, perché comunque lui si è fatto male, la gente lo ignora, nessuno si ferma, e tra l'altro uno dei suoi grandi crucci è che dopo che si sveglia, dopo un bel po' di tempo che era rimasto senza conoscenza, si rende conto che comunque nessuno è venuto a cercarlo, e quindi si ritrova completamente in balia di questo non luogo dove non riesce a capire dove si trova, come uscirne, e questo chiaramente è un'enorme metafora di quelle che non ha senso manco spiegare, che però sono degne del miglior Ballard. Esatto. No, è incredibile. Altro romanzo pazzo completamente è Il Condominio, o meglio conosciuto come Condominium, nell'originale è High Rise. Perché? Perché sì, condominio è abbastanza generico, in realtà stiamo parlando di vere e proprie torri. È una sorta di... oddio, come si chiama il treno nella neve? Snowpiercer all'incontrario. È vero. Va bene? La vicenda si sviluppa, in tutto ciò si sviluppa in 3 mesi. È interessante sapere fin da subito che, si capisce presto che, temporalmente, c'è un inizio e una fine temporale, cioè, siamo lì, nell'arco di 3 mesi. E avviene all'interno di un grattacielo, chiaramente siamo a Londra. È un grattacielo di lusso. Questo vuol dire non che è abitato solo da ricchi, ma che i piani più bassi sono abitati dai più poveri, e più sali di classe sociale, quindi gli appartamenti diventano più grandi, servizi migliori, eccetera eccetera. Fuori da questo palazzo, che è autosufficiente, ci sono le piscine, ci sono le scuole, c'è tutto dentro di questo grattacielo. Vicino c'è costantemente la costruzione di questi altri grattacieli molto similari in costruzione, quindi fanno parte cioè rendono ancora più esclusivo quello a cui appartieni, perché capisci che ne stanno facendo altri ma che ancora non ci sono. Sì, e poi tu non puoi uscire, cioè nel senso non è che non puoi uscire, ma perché dovresti? Esatto, perché dovresti uscire? Non c'è bisogno di uscire. Però di fatto c'è una vita fuori, si va a lavorare, eccetera eccetera. Però a un certo punto chiaramente c'è il patatrac. E succede il patatrac esattamente il giorno in cui viene inaugurato l'ultimo appartamento del palazzo. Arriva un mega blackout. E a quel punto il condominio, che doveva essere perfetto nella sua suddivisione in classi, chiaramente esce fuori da controllo, perché non c'è più niente. E la gente non sa più quali siano i valori da rispettare all'interno di quel mondo che ti ha costretto a stare lì dentro, perché hai capito che lì dentro c'hai tutto, e abbandoni fuori, abbandoni il lavoro, abbandoni tutto, però poi di fatto, non essendo spaesato, cominciano vandalismi, eccetera, eccetera. Però la follia non finisce certo qui, anche perché di fatto non è che sia gran folle questa cosa qua, cioè a un certo punto, cioè, la follia inizierà dopo, perché chiaramente questo mega condominio comincia ad evolversi, a cambiare, allora c'è chi se ne andrà, zitto zitto, ma chi rimane cerca di vivere, di riuscire a sopravvivere all'interno di questo sistema. Allora si cerca di salire, e c'è la salvezza salendo? Sì, no? Non si può, non si sa, insomma, non ve lo dico perché è veramente folle, però se ne vede di tutti, cioè si arriva addirittura alla descrizione di possibili cannibalismi. Non ci so... possibili. Più però... che si sale, diciamo, e più che si va di fuori, ecco. Esatto. E qui, tra l'altro, vi dicevamo queste figure femminili molto forti, proprio direttamente proporzionali alla violenza che hanno subito, qui si vede molto bene. Non sto a dirvi bene, però insomma, a un certo punto c'è una comune di donne a cui si unisce colui che voleva governare tutto. E quindi cosa succederà? Insomma, non so a dirvelo. Però, capito? Cioè, vi abbiamo dato un po' di input folli, di base. La cosa interessante, appunto, è questo mondo chiuso, spaesante, che ti isola da quegli altri e ti riempie di false aspettative, di false di illusioni. Esatto. Sì, tra l'altro, di Condominium è uscita anche una versione cinematografica, High Rise, qualche anno fa, non troppi anni fa, molto bella tra l'altro, secondo me. C'è un bel film, chiaramente edulcorato, cioè non vi aspettate il Cronenberg, però secondo me bello, pazzo al punto giusto. E sì, è molto godibile, ma anche il libro del resto è molto divertente. Lui si prende delle belle libertà, Ballard, in questo libro, secondo me. Arrivo, scusami, perché io ho letto una cosa, forse non era della D Edizioni, era una scrittrice giapponese o asiatica, e che aveva fatto una roba simile a ora mi viene in mente rileggere a Condominio. Io forse ho capito cosa dici. Era della D Edizioni, forse no. Sì. Non lo sto trovando. Lo guarderemo, la prossima volta. Sì, ve lo diremo, vi aggiorneremo. Tanto, comunque, davvero... ci toccherà un'altra puntata su Ballard, ovviamente. E a questo punto immagino che magari faremo sì, come dicevi te, la seconda parte della sua vita, cioè poi gli ultimi romanzi e le ultime cose che ha scritto. Magari se siamo bravi, bravo. potremmo anche riuscire a metterci qualcosa, a farvi capire bene quali sono le influenze che Ballard ha portato poi sul successivo. Potrebbe essere interessante, sì. Così si fa una bella puntata, comunque lunghetta, ma che assolutamente. Dai, anche proviamoci, perché ce n'è un bel po', esatto, ce n'è tantissimo per noi, quindi. Però parlare solo della seconda parte di produzione sarà interessante, però forse magari una mezz'ora, 40 minuti finiamo, quindi. Me lo sono segnato. Ah, mo segno. Me lo sono segnato. Evviva. Allora, questo era Ballard, speriamo di avervi fatto venire un po' voglia di leggerlo. Tanto lo trovate facilmente online? Ah, sì. Trovate veramente tutto? Sì, trovate tutto, anche nei circuiti pirateschi, trovate veramente tutto lo scibile, tranne, ahimè, I saggi che vi dicevamo all'inizio, come dicevo, l'autobiografia la raccolta di saggi, invece io ho faticato moltissimo. Magari voi siete più brave, io ho faticato. Vabbè, però nei libri all'usato, per esempio, lo trovate. Sì, sì, sicuramente. Evviva, allora, grazie a tutte e tutti per essere rimasti qui con noi alle porte di Tannhäuser. Ci vediamo, ci sentiamo tra due lunedì e quindi, non lo so, che cos'è il 2? È il 2 febbraio, marzo, il 2 marzo. A marzo, che bello, magari non piove. Speriamo, ci siamo un po' rotti i coglioni. Cioè, essere... è importante, la pioggia è importante. Capito, però... ma sembra essere in Blade Runner. Bello, eh. Sì, è vero. Sembra essere in Inghilterra. Esatto. Con questa pioggerellina fine, queste giornate di pioggerellina fine. Maledizio. Va bene. Wombat. Ciao ciao. Ciao. È la prima volta che ti trovi davanti alle porte di Tannhäuser? Beh, se cerchi un posto dove sognare ed immaginare in libertà, sei nel posto giusto. As it should always be. The foundlings are the future. This is the way. This is the way. This is the way. Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi. No, io sono tuo padre. E sempre efficiente lanciafiamme. Il mio preferito. Benvenuto sulla terra. Penso che ancora non siete pronti per questa musica. Ma ai vostri figli piacerà.